Accendo. Vado. Vai. Cioè, ma devo... No, lo posso... So, lasciamolo qua. Lezione del 28 aprile. Magari sei più vicino, vedo, mi sposto meno, non so. Allora, abbiamo lasciato a metà, c'erano due colonnine l'altra volta, una l'abbiamo più o meno riempita. Stavo cercando di raccontarvi le letture, le cattive letture del postumano. E ve ne ho proposte due, una ve l'ho proposta l'altra volta ed è quella, diciamo, degli eccessivamente entusiasti, per usare un eufemismo. E cioè il movimento transumanista. Direi che abbiamo fatto polpette del transumanismo l'altra volta, quindi non ci devo fermare di più. Allora, oggi cerchiamo di fare polpette invece di un'altra corrente che è italiana, però ci sono dei, ci possono essere delle analogie anche in altre, diciamo, culture, ma noi usiamo gli italiani. E invece questo modo di pensare è quello che è violentemente opposto al postumano, perché suppone che il postumano sia il tradimento e la morte e la negazione di tutto ciò che è. Di tutto ciò che varrebbe la pena conservare. Cosa varrebbe la pena conservare secondo questi signori, secondo questo modo di pensare? Varrebbe la pena di conservare quello che loro esplicitamente chiamano l'umanesimo o l'umanismo, cioè la centralità degli esseri umani in realtà. Loro, travestendo da universalismo questa cosa, loro parlano di, adesso vediamo magari di leggere qualcosa, essenza o comunque insomma, diciamo, centralità dell'essere umano, ma in realtà parlano fondamentalmente del modo in cui l'essere umano si è costituito con la modernità, quindi parlo dell'uomo moderno. Questa corrente quindi è una corrente che rimpiange la fine dell'uomo, rimpiange insomma, perché in realtà sa che può fare poco per cambiare le cose. Allora, il libro da cui ho preso, che è quello con cui faccio polemica prevalentemente anche nell'ultimo capitolo del Cyborg, è un libro di un signore che si chiama Pietro Barcellona ed è uno degli esponenti più in vista dal punto di vista della cultura della sinistra radicale. Quindi pensate voi come è messa la sinistra radicale dal punto di vista culturale, che ha come sinistra radicale si intende quella più o meno che viene dal PC, insomma, componenti, vecchie componenti del PC che oggi trovate in parte politicamente, in parte dentro Rifondazione Comunista, in parte dentro i comunisti italiani, insomma, fuori dal Parlamento perché non sono stati capaci neanche di farsi leggere, e che però sono collegati con un altro personaggio storico molto importante del PC, che è Pietro Ingrao, che è stato Presidente della Camera per vari anni, negli anni 80. Il punto di vista di questa, diciamo, sinistra, di questa sinistra politica, insomma, È una sinistra che non dovete confondere con movimenti più di opposizione, più legati alle esperienze di base, insomma, come centri sociali o collettivi studenteschi. Ci sono posizioni di questo tipo anche dentro i centri sociali, però diciamo che non rappresentano esattamente il collante, insomma. Il panorama dei riferimenti culturali dei centri sociali è molto variegato, ma prevalentemente però sono storie che sono intrecciate, insomma. Perché un altro dei personaggi che hanno scritto delle cose più o meno contro il postumano, che si chiama Mario Tronti, è un altro vecchio militante del PC, tutta gente che ha un bel po' di anni più di me, insomma. Cioè dai 20 anni più di me, dai 15 ai 20 anni più di me, quindi. Passati gli 80, insomma. E questo Mario Tronti è uno che è all'origine tanto della sinistra, di una parte della sinistra comunista, quanto di quella corrente che va sotto il nome di autonomia operaia e che negli anni 70 era completamente fuori dal PC, eccetera. Perché Mario Tronti fu quello che scrisse un libro fondamentale per questa corrente di riferimento che è Operaio Capitale, che uscì nel 64 o 65, 1964 o 65. E vabbè, e oggi fa questo genere di cose. Allora vediamo di capire cosa dice questo signore. Questo Pietro Barcellona quindi ha fatto il libro a cui mi riferisco, è un libro che si chiama L'epoca del postumano, è uscito dal piccolo editore Città Aperta, comunque tutte queste cose che trovate alla fine del libro, forse meglio alla fine del mio. Forse meglio che guardo direttamente quello che ho scritto io. Allora, questo qui nel 2007 ha fatto una lezione magistrale, come si chiama, al Centro per la Riforma dello Stato. Infatti il titolo è L'epoca del postumano, lezione magistrale per il compleanno di Pietro Ingrao e la presentazione di Mario Tronti, quindi ci sono tutti e tre, Barcellona, Ingrao e Tronti, messi proprio tutti nello stesso libro. Leggiamo una frase, no? Leggiamo la ricostruzione storica che fa Barcellona della crisi della, diciamo, politica e della storia dei movimenti, della storia, insomma, di alcuni accenni storici ai movimenti in Italia. Dice Barcellona: non ho mai condiviso la classica distinzione fra struttura e sovrastruttura, cioè tra elementi materiali della vita, l'economia e le ideologie. Divisione che alcuni attribuiscono a Marx, che Marx ha fatto in certi casi, ma non mai in modo così schematico e rigido come hanno fatto i marxisti. Non ho mai condiviso la classica distinzione fra struttura e sovrastruttura, ma non ho potuto non rilevare la straordinaria coincidenza delle forme dell'autorappresentazione con i mutamenti dell'organizzazione capitalistica del lavoro. Non c'è dubbio, per esempio, che la psicanalisi di Freud rappresenti nel modo più significativo l'interiorità dell'uomo borghese come appare ai contemporanei. L'idea dell'uomo virile dedito all'educazione di se stesso secondo l'etica della maturità, dell'autonomia e della responsabilità coincideva perfettamente con la nuova antropologia della modernità. Nonostante la concessione che il riferimento all'inconscio sembrava fare agli aspetti irrazionali, la rappresentazione di un io che riesce a dominare le pulsioni secondo il modello ideale raccontato dal padre, che con la sua autorità domina la famiglia, offre anche un esempio di laboriosità e di impegno che corrisponde perfettamente all'atmosfera sociale creata dalla prima rivoluzione industriale. Su questo non c'è niente da dire. Così come il modello della famiglia operaia e della mutualità solidale rappresenta gli ideali di una società che ruota attorno alla grande fabbrica fordista. E fin qui parliamo sempre del passato. Stato sociale, famiglia operaia e catena di montaggio sono i pilastri di un nuovo compromesso che esprime l'equilibrio tra il bisogno di benessere e la dura fatica del lavoro. L'etica della maturità si sposa con l'etica del lavoro e della cooperazione e offre un quadro di riferimento ai nuovi attori, la fabbrica, il sindacato operaio e lo Stato. La promessa della modernità, dell'autonomia individuale e della libertà senza vincoli, tuttavia, lavora in profondità, scardinando i presupposti dei legami affettivi familiari e di classe, suscitando aspettative e bisogni di benessere che reclamano la fine di ogni autorità. La terza rivoluzione industriale coincide con lo scatenarsi della contestazione giovanile contro ogni forma di autorità e la stessa psicanalisi viene travolta dai movimenti del 68. Non ti vedo niente di male. Tra il 68 e il 77 si consuma quello che, a distanza di anni, viene presentato come il successo dell'istanza della libertà e della autonomia individuale, il grande parricidio di ogni autorità. Questo siamo noi, è come la pensiamo noi. Adesso invece viene come la pensa lui. Esso segna invece la regressione dell'ideale individuale a una forma di narcisismo infantile, teso unicamente alla soddisfazione di ogni bisogno. Quindi scopriamo che Barcellona in realtà è un freudiano ortodosso e che sostiene che bisogna reprimere e che sostiene che la condizione di ogni civiltà, di ogni società civile è la repressione, l'autorepressione. L'epoca dei consumi di massa tende a dissolvere la tradizionale dicotomia delle classi e inaugura un ciclo produttivo sempre più frantumato, in mille lavori parcellizzati, giusto. Finisce la grande fabbrica, ma si dissolve anche ogni ideale collettivo. Il consumatore diventa la figura centrale della nuova immagine della società del benessere. Il capitale si naturalizza e si sviluppano le nuove forme del capitale cognitivo, che usa la capacità di conoscere come risorsa fondamentale della produzione, questo l'ho detto un sacco di volte. Ma quel che più conta, l'economia si libera della politica e inizia quella opera di naturalizzazione del ciclo che trasforma il mercato in un fatto naturale, in realtà è sempre stato così fino dai tempi di Adam Smith, però, con le sue leggi e i suoi principi. La costruzione dell'immaginario collettivo intorno ai modelli mediatici del successo e della perfezione e della performatività si manifesta come un potente attacco alla triade che sino ad allora aveva governato la condotta, la legge del padre, lo Stato, la realtà. La naturalizzazione dell'economia produce paradossalmente la smaterializzazione della vita reale, che appare sempre più etero diretta da forze estranee alla cultura dell'etica, della maturità e del lavoro. Il principio del piacere, che Freud aveva posto come antagonista al principio di realtà, ci mancherebbe altro, questo sono io, realizza il suo trionfo sino a far coincidere il senso della vita con il soddisfacimento immediato di ogni bisogno. Se fosse così saremmo tutti molto più felici, credo. Quindi scopriamo che in realtà oggi sta vincendo il principio del piacere. Quindi abbiamo vinto la rivoluzione, accidenti, non ce ne eravamo accorti. La fantasia onnipotente del consumo illimitato si accoppia con la negazione di ogni soggettività politica. Ai ai ai, qui c'è un salto logico. La fantasia onnipotente del consumo illimitato si accoppia con la negazione di ogni soggettività politica. La fantasia unifica in un solo blocco la biologia e il capitale. Che cosa bisognerebbe fare, secondo questo signore, per salvarci da questa, da questo terribile destino che ci vede sottomessi al principio del piacere? Ha ragione Tronti, dice in un altro pezzo, sempre di questo libro, ma adesso non c'è una nota, quindi non so dove beccare quella pagina. 20. Ha ragione Tronti quando afferma che la fine del movimento comunista è allo stesso tempo la fine della politica, come immane sforzo dell'uomo di costruire uno spazio autonomo rispetto a quello biologico e naturalistico della produzione e della riproduzione della specie, lo spazio della creazione, del senso, delle mete individuali e collettive che danno dignità all'agire umano. Se il borghese è per statuto uomo biologico naturale, il politico è per statuto il suo antagonista. Qua. Ho sbagliato nota. E che mi dice 20-21? Ho sbagliato nota, ragazzi, ho sbagliato pagina. E questo sta dopo. Allora, leggiamo direttamente il paragrafo modernità e post-human. Sotto questo profilo la contrapposizione tra modernità e postmodernità non regge. È infatti la coppia della libertà individuale e dello sviluppo delle forze produttive, apparato tecnico economico, che ispira e connota le logiche evolutive del capitalismo, al di là degli specifici contesti storici. Se l'antropologia della modernità inaugura la nuova configurazione dell'individuo come soggetto di bisogni, destinato all'appagamento immediato, è inevitabile che l'unico obiettivo che corrisponde a tale rappresentazione sia quello della massima espansione della ricchezza consumabile, al di fuori di ogni vincolo materiale dipendente da temporalità e spazialità tradizionali. La dissoluzione del mondo dentro l'apparato capitalistico tecnologico istituisce un codice immunitario globale, capace di garantire la sopravvivenza della vita oltre ogni condizionamento relativo ai limiti naturalistici dell'universo e della materia. La libertà dei moderni, infatti, è l'aspirazione a una potenza illimitata che si autorealizza nel proprio sciogliersi da ogni vincolo e che appunto perciò si capovolge nella necessità del meccanismo destinato a consentire il perseguimento dell'infinità degli scopi particolari. La metamorfosi continua diventa per la modernità il progressivo adeguamento del principio della libertà alla necessità dello sviluppo delle forze produttive della tecnica. Per realizzare la contingenza della infinita pluralità dei bisogni occorre accettare la necessità del modo di produrre che massimizza la capacità di creare ricchezza, e questo è quello che ovviamente ci chiede il capitalismo. L'orizzonte del post-human coincide con quello dell'evoluzione del capitale sino a diventare capitale cognitivo immateriale. Il vero telos, cioè il vero obiettivo della modernità, è la sconfitta della finitezza e della mortalità, che unifica il pluralismo delle forme nella destinazione all'immortalità dell'essere. Sotto questo profilo, la modernità appare non solo coerente con gli esiti attuali, ma si manifesta per quello che rappresenta profondamente, l'aspirazione a una coincidenza di essere e divenire, di morte e di vita, che proietti la singolarità individuale in un universo destinato alla evoluzione infinita del codice immunitario della natura vivente. Il post-human è cioè il prolungamento dell'ideologia moderna dell'onnipotenza, dell'autocostituzione della prassi e dell'immutabilità dell'essere. Un'ideologia dell'immortalità mascherata da conquista scientifica, questo è quello che pensano i transumanisti, effettivamente. Lui non sta criticando il post-human in genere, ma i transumanisti, anche se non lo sa. Una ideologia dell'immortalità mascherata da conquista scientifica, che intanto ha l'effetto di perpetuare all'infinito l'antropologia dell'uomo, soggetto di bisogni e del modo di produrre che a essa corrisponde. Il post-human è la radicalizzazione dell'immanenza del codice vivente al processo evolutivo, che non consente di ipotizzare alcuna trascendenza e alcun fondamento. Alcuna trascendenza e alcun fondamento. Quindi vuol dire che invece lui vorrebbe della trascendenza e del fondamento. Norma e fatto coincidono nell'ibridazione di biologia e intelligenza artificiale di uomo e computer. In un altro punto dice: pluralizzazione della soggettività sino all'estrema singolarità, disseminazione del ciclo produttivo sino alla negazione di ogni rapporto territoriale, critica del modello umanistico della soggettività fondato sul dualismo di mente e corpo sono gli elementi della nuova costellazione. Quindi, siccome Barcellona si dichiara così scandalizzato da questo avvento del post-human e dice che il post-human fa una critica del modello umanistico della soggettività fondato sul dualismo di mente e corpo, io sono autorizzato a supporre che lui voglia che lui sia sostenitore di un modello di umanistico di soggettività basato, fondato sul dualismo di mente e corpo, cosa che da un materialista che si dichiara materialista e marxista non mi sarei mai aspettato, ma se lo dice lui non posso altro che prendermi. In che cosa consiste questa critica del post-human? Detto in altri termini, probabilmente ve lo dico in modo diverso da come è scritto nelle ultime pagine del Cyborg, poi voi vi leggerete nelle ultime pagine del Cyborg e vedrete se ha scritto una cosa tanto diversa, che sia un poco diverso, io penso di no, ma adesso provo a metterla in questo modo. Essenza, cioè l'essenziale di questa critica al posto umano, cioè di questa rivalutazione dell'umano, diciamo, è l'identificazione della soggettività che si oppone al capitalismo con la politica. Con la politica, dipende da cosa intendiamo per politica. Adesso ovviamente se per politica intendiamo un qualunque processo di auto-organizzazione degli individui che si contrapponga alla eterodirezione, alla eteronomia, e voglia affermare l'autonomia degli individui, non posso che essere d'accordo. Ma da tutto il contesto di quello che si legge lì, pare che Barcellona e Tronti intendano per politica non tanto questa cosa in generale, quanto le forme particolari che ha avuto la politica nel corso della piena fase di dispiegamento della modernità, e cioè la dialettica borghesia-proletariato, classe operaia-classe capitalistica, come si è sviluppata nel corso, diciamo, perlomeno dalla seconda metà dell'Ottocento e della prima metà del Novecento. Se le cose stanno davvero così, e io credo che la posizione di Barcellona di questa corrente sia questa, allora io dico che dietro a questa posizione c'è una confusione tra le ragioni di fondo che possono portare a una critica del sistema capitalistico e le forme storiche specifiche con le quali questa critica si è. E voglio dirlo ancora in modo ancora più esplicito e più chiaro. Quella fase, quelle figure della politica, quelle strutture della politica, partiti operai contro partiti borghesi, organizzazioni della classe operaia tradizionale, sindacati, cooperative, mutue, un po' dentro e un po' contro le strutture dello Stato, è morta, è finita. Sono, perché? Perché sono finite le condizioni di quella particolare lotta politica e perché c'è stata una trasformazione sociale, economica e produttiva di portata planetaria iniziata alla metà degli anni 70 del secolo scorso e non conclusa ancora neppure adesso, perché siamo dentro a questo ciclo chiamata post-fordismo, chiamata capitalismo cognitivo, capitalismo delle merci immateriali, che ha scombussolato le classi, non che le classi non ci sono più, ma le classi di oggi non sono più le classi classiche, le classi classiche, le classi tradizionali che si sono create nel XVIII secolo e che sono state traghettate per tutto l'Ottocento e per la prima metà del Novecento. Non esiste più una classe operaia, non esiste, esistono operai, certo, ma non esiste, perché la classe non è mai stata, e Marx non ha mai detto che la classe fosse un processo puramente economico. La classe è stata ed è un processo che su una base di una struttura produttiva ed economica creava soggettività politica, era un processo politico. Quando Marx parla di classe operaia è perché la vuole formare, la vuole creare la classe operaia, a partire dai manoscritti di Economico Filologi del 43-44, scritti quando lui stava a Parigi e assisteva alle prime riunioni degli operai parigini, degli operai che si auto-organizzavano in maniera che mettevano le basi poi per la creazione di una classe operaia senza un'organizzazione di qualche tipo basata sull'esperienza degli operai non esiste. Quindi identificare, come fanno Barcellona, Ingrao e Tronti, identificare i processi della soggettività, cioè della creazione del soggetto politico, con le forme particolari che questo processo ha assunto in un momento storico particolare, è profondamente, non dico anti, ma a marxista, è fuori dal modo di pensare, dal modo di impostare i problemi di Marx, e soprattutto è espressione di un puro atteggiamento nostalgico, di nostalgia verso un certo periodo dell'Occidente, in cui l'Occidente, in particolare l'Europa, ha sviluppato la sua dialettica sociale e politica in quel modo, mentre oggi non può più farlo. Quando Marx ha sviluppato la sua critica al capitalismo, non l'ha sviluppata né nei manoscritti del 43-44, né in Per la critica dell'economia politica, né nel Capitale, non l'ha mai fondata su un atteggiamento di nostalgia per quello che c'era prima. Ah, che brutta cosa il Capitale, torniamo indietro, torniamo all'agricoltura, torniamo all'artigianato, la grande no, al contrario. Marx ha sempre detto che il sistema capitalistico era un passo avanti importantissimo, fondamentale, che segnava un salto di qualità nello sviluppo della cooperazione umana, della cooperazione dell'umanità, che sviluppava le forze produttive, che faceva andare avanti, che migliorava il sistema di cooperazione, ma che su questo miglioramento basilare, su questo fondamento di base, innestava una contraddizione mortale. Quella dell'appropriazione privata, privatistica da parte del capitalista di un processo produttivo che diventava sempre più cooperativo e sempre più pubblico. Questo ha detto Marx, non che la cosa fondamentale era fare un passo indietro e dire che schifo che c'è qua, cerchiamo di, diciamo, rimettere le cose come era prima. Né ha mai pensato di applicare le categorie dei rapporti tra le classi, delle dinamiche di classi che c'erano anche prima del capitalismo e dei rapporti politici conseguenti al sistema capitalistico. Ha sempre detto che la classe operaia, in quanto classe nuova creata dal loro sviluppo capitalistico, doveva creare le sue proprie forme di organizzazione, i suoi partiti, i suoi sindacati, le sue cose, per combattere dentro. Ora, quello che Barcellona non ci dice in questo libro è che la rivoluzione del capitalismo cognitivo e del capitalismo post-fordista ha avuto e sta avendo come effetti primariamente degli effetti sociali. Noi siamo in questo momento in un periodo di ricomposizione, di ricreazione, di rimescolamento, si creano classi nuove. È una palla che le classi non ci siano più. È impossibile, ogni società umana, dall'agricoltura in poi, è una società di diverse classi. Da quando c'è l'agricoltura si sono formate le classi sociali. Da quando c'è un sovrapprodotto sociale, che si tratti di un cumulo di chicchi di grano che non vengono consumati quell'anno, sovrapprodotto agricolo, o che si tratti di una serie di prodotti industriali, da quando c'è un sovrapprodotto sociale di qualunque specie, che viene gestito da una minoranza addestrata per questo scopo, ci sono classi sociali, non ci sono più. Ci sono quelli che faticano e sudano come dei pazzi nei campi, nelle fabbriche, adesso però nelle proprie case, adesso la gente suda e fatica e crea più valore a casa propria, perché lavora per il capitale in modo diverso, non c'è più la grande fabbrica. E se no, perché tutto questo casino di chiudo le parti? Accorgitene un po' che non ce n'è più, che sono sempre meno queste fabbriche, che il lavoro si è enormemente diffuso, no? Però le classi ci sono sempre, soltanto che obiettivamente non possiamo pensare che le classi siano quindi e ci sarà sempre una o più classi che controllano e detengono le leve dei dispositivi economici che fanno, cioè, come dire, girare le cose. Quindi ci sarà gente che gestisce il plusvalore e gente che crea plusvalore. Quello che crea plusvalore è la classe degli sfigati, dei morti di fame, di quelli che prima era la classe operaia. Adesso la classe operaia è un pezzettino sempre più minoritario di una nuova classe, nuova, di persone che continuano a creare plusvalore, ma non più con i meccanismi della grande fabbrica, non più con i meccanismi del capitalismo produttore di merci materiali, ma con un nuovo meccanismo, con nuovi meccanismi, con nuovi dispositivi, i dispositivi del capitalismo produttore di merci immateriali, produttore di immaginari, produttore di software, produttore di quello che sia. E allora naturalmente ci sono i 3.000 dipendenti di Microsoft che vanno a lavorare per Microsoft e sono giuridicamente lavoratori dipendenti e creano un pezzo del plusvalore legato alla grande circolazione dei software nel mondo. Ma oltre a questi 3.000 dipendenti di Redmond, della Microsoft, che sono il nucleo, ce ne sono 30.000, 300.000, 3 milioni nel mondo che non lavorano a Redmond, che lavorano a casa loro, che lavorano in piccole software house o che lavorano a casa loro, cioè si è disperso, polverizzato, frammentato il lavoro. Questa è la nuova classe. Questa è la nuova classe, è una nuova classe di lavoratori, cioè gente che, diciamo, lavora, ma è l'essenza del lavoro che è cambiata in questi ultimi 30 anni, è il modo di lavorare. il meccanismo di cui parla Barcellona, il capitalismo classico di Barcellona, è un capitalismo nel quale c'è un nucleo, c'è una sede privilegiata di creazione di valore, che è la fabbrica, che è la grande fabbrica, che è l'agglomerato, che è l'insieme delle persone che vengono trainate dalla necessità di sopravvivere, che vengono assunti, che vengono portati, che vengono tenuti 8 ore al giorno o anche di più dentro certi luoghi fisici per produrre le merci materiali. Lì è il più valore. Quello è il lavoro, classico, il lavoro produttivo. A questa epoca classica del lavoro cocordista e quindi della borghesia tradizionale, capitalista, più altri pezzetti di borghesia, insomma il nucleo della borghesia industriale, attorno a queste due classi fondamentali della borghesia industriale e del proletariato industriale, ruotano tutte le altre classi, tutte le altre masse, diciamo, con il risultato. E l'Ottocento e il Novecento hanno visto uno scontro sociale di base e poi politico anche delle loro strutture tra queste due campi, la borghesia industriale e il proletariato. Questa storia ha creato le forme politiche che noi oggi conosciamo e ha creato l'immaginario antropologico che noi oggi conosciamo. In modi diversi è la storia che in qualche maniera ci racconta sul piano della formazione delle epistemi Foucault nel libro Le parole e le cose. E quindi Foucault ci spiega in quel libro come è lì che nasca l'uomo. L'uomo nasce lì, quello è l'uomo borghese, è l'uomo moderno, è l'uomo della modernità. Nasce un nuovo sapere sull'uomo e contemporaneamente nasce una nuova figura, un nuovo oggetto di studio che è l'uomo. Dire postumano significa solo questo, significa la figura sociale uomo non è sopravvissuta alla fine delle condizioni che l'hanno creata. Pochi anni dopo che Foucault scrisse la frase che vi ho letto all'inizio del corso, l'uomo è una creazione recente nella storia dell'Occidente, e se succederà che verranno cambiate, che si cambieranno le condizioni a partire dalle quali si creò l'uomo, questa figura dell'uomo potrà scomparire così come è nata. Bene, pochi decenni sono bastati, poco più di 10 anni dopo che Michel Foucault licenziava questo libro e lo poteva stampare, credo da Gallimard in Francia, 1964-65, Le parole e le cose, poco più di 10 anni dopo cominciava esattamente quel processo che cancellava l'uomo, come può dire Fortunato. Che quell'uomo è cancellato e non c'è Cristo di Barcellona che lo possa far risuscitare. Caro Barcellona, tutta la tua lotta politica, tutta la tua nostalgia per quest'uomo è aria fritta. Sono parole che volano per l'aria perché la concretezza dei fatti sociali è diversa. Non c'è più la classe operaia, non c'è più neanche la borghesia tradizionale, si stanno creando nuove classi intorno a un nuovo produttivo che è sempre capitalistico, che comporta sempre l'appropriazione privata da parte di una minoranza del suo prodotto sociale, prodotto collettivamente e sempre di più cooperativamente. Il postfordismo va letto non in modo marxista, ma in modo marxiano, perché il postfordismo sta facendo esattamente quello che esattamente come Marx ha spiegato che è nato per il capitalismo classico, così all'ennesima potenza. Il post-fordismo è capitalismo all'ennesima potenza, perché in tutti i passaggi che dice Marx, perché il post-fordismo è in primo luogo un salto in avanti epocale, fragoroso, enorme, impensabile del livello di cooperazione, impensabile. Non c'è meno cooperazione sociale, ce n'è di più. Tutti i beni, le merci e i servizi di cui noi fruiamo sono il prodotto di una enorme cooperazione, organizzatissima, che non diciamo, interessa e non coinvolge più, come ai tempi del capitalismo classico, tutto sommato una piccola fetta della popolazione per una parte della sua giornata, ma coinvolge tendenzialmente l'intera umanità per l'intera durata della sua giornata. Cazzo, per l'intera durata della sua giornata. Noi lavoriamo anche quando non lo sappiamo, 24 ore su 24 per il capitale globale. Il capitale globale si nutre, vampirizza non più le 8 ore in cui l'operaio sta in fabbrica e gira un bullone, ma vampirizza ogni minuto della nostra vita, ogni pensiero che ci viene in testa, ogni innovazione, ogni invenzione di ogni pezzettino della nostra vita. Su questo vive il capitale. Ho già fatto l'esempio, ovvero diciamo di fatto l'industria dell'abbigliamento mondiale non ha più bisogno di stilisti che si inventino i capi, ha bisogno di persone che vadano in giro per le città del mondo e abbiano l'occhio addestrato a vedere quello che la gente fa spontaneamente, il modo in cui la gente si veste spontaneamente con quello che c'è già, cambiandolo. La stagione dopo, quelle diciamo invenzioni, ma di dove cazzo pensate che sono venuti i jeans con i buchi o tutte queste robe qua? Derivano da questo, ma questo vuol dire che oggi il capitale vive su questo. Allora vi pare possibile che noi possiamo oggi riproporre nel 2010 il partito operaio tradizionale che sia quello che ci scagna questo sistema? Quel partito operaio andava bene, se andava bene, mi pare però oltretutto che hanno fatto abbastanza fallimenti tutti quanti questi bei partiti operai tradizionali, sia quelli comunisti sia quelli che fanno hanno fallito tutti e due, perché non è che hanno fatto nessuna rivoluzione socialista. O le volte che l'hanno fatta era meglio che non lo facessero perché hanno fatto lo schifo che hanno fatto nel resto d'Europa, no? Quindi dico, cazzo, insomma. Ma pensate che è riproponendo quello, allora questo è l'umanesimo. L'umanesimo vuol dire nostalgia per qualcosa che non c'è più, che è morta, che è finita. Postumano significa semplicemente prendere atto che quell'uomo lì non c'è più, che è finito. Che siamo tutti dei cyborg, che il cyborg, come ho detto non io ma Gerd Florig, però è talmente bello che mi sono messo su Facebook come firma, che essere cyborg oggi non è un optional, è una condizione strutturale degli uomini o dei post-uomini del XXI secolo. Perché siamo tutti cyborg? Perché la nuova forma di umanità che sta venendo fuori è esattamente una forma di umanità che comprende strutturalmente un ineliminabile rapporto con le tecnologie. Non importa che abbiamo delle valvole idrauliche, ce l'ha naturalmente, non importa che abbiamo un occhio artificiale o un braccio artificiale o gli occhi diciamo impiantati come molli o un mitra al posto del braccio con un altro personaggio di un romanzo di Gibson, che poi l'abbiamo visto innumerevoli volte al cinema e nei documenti. Non occorre questo, queste sono delle forme particolari di cyborg, sono state la visaglia dei cyborg, ma cyborg vuol dire oggi vivere in simbiosi concettuale e pratica con le tecnologie di comunicazione. Vuol dire non poter fare a meno di un telefono cellulare, per quanto fissato e diciamo malandato e di una generazione antiquata come quello che ho io, diciamo per esempio, si è cyborg per quello, si è cyborg perché anche se siamo nati tutti noi, non lo so, considerate voi, io sono nato dal DNA di due, diciamo, persone normalmente mescolato a seguito di un più o meno normale rapporto sessuale. Ma anche se non siamo nati in maniera diversa, anche se non siamo nati in provetta, siamo oggi nell'epoca in cui potenzialmente è possibile, prima o dopo i rapporti sessuali, prima o dopo la nascita dell'embrione, prima o dopo la creazione, alterare, intervenire chimicamente e biologicamente su questo DNA. Non saremo cyborg elettromeccanici forse, perché no, non abbiamo un mitra al posto dell'avambraccio, ma siamo tutti dei potenziali cyborg genetici, tutti lo siamo, perché, perché l'orizzonte nel quale si iscrive, perché basta a volte enunciarla questa possibilità per cambiare totalmente l'orizzonte nel quale noi viviamo. È certo che ci possono essere degli eccentrici che non usano il cellulare o come me che non guardano la televisione, ma ciò nonostante siamo definiti socialmente dall'esistenza di queste tecnologie, e sono tecnologie che entrano sempre di più tendenzialmente dentro il nostro corpo. Questo vuol dire essere salvo, questo vuol dire essere continuato, questo vuol dire. Scolati il termine non sia tra i più, diciamo, felici, ma insomma basta, come dire, capirsi su quello, su quello che questo diciamo significa. Adesso capite perché ho assistito così tanto, che ho fatto una capa tanta per tutta la prima parte del corso sulla questione della relatività culturale. Perché volevo essere sicuro, non che voi che aveste capito che la posta in gioco era questa, qualcuno non capisce come sta di fare questa. Però la posta in gioco è questa. Se pensiamo che esista qualcosa chiamato natura umana, che è sempre stato uguale fin da quando è nato l'uomo, se lo sapete come è nato l'uomo, se dobbiamo datare la nascita della natura umana dalla specie Homo sapiens o dalle con parecchie altre specie di Homo che non erano sapiens, ultimo i Neanderthalensis, le Erectus, Labile, tutti Homo, ma non ce n'è più adesso di Homo che non siano sapiens, perché Homo sapiens è una specie fatta, diciamo così, che serve in primo luogo i propri cugini e poi il dopo che gli fa volta. Ma la prima cosa che Homo sapiens fa fuori, Neanderthalensis venne eliminato non più di 60.000 anni fa, un evento relativamente recente, non più di 60.000 anni fa, venne soppiantato da Homo sapiens, l'uomo di Cro-Magnon, come si diceva il tempo. Ragazzi, mi dite l'ora perché mi si è attaccato il culo. Le? 3:05. Allora io alle 4 devo a Bologna. Allora, ecco perché ho detto la natura umana, perché c'è certamente, se noi tutto diciamo, l'imbroglio sta nel... sarà anche diciamo, triste che quella che si concepisce come la sinistra radicale, cioè la diciamo, sinistra più conseguente, in realtà è tributaria di questa... diciamo concezione che poi è tipicamente borghese, insomma, universalista, perché i primi personaggi che da uomini appena nati e da uomini particolari, cioè esponenti di una classe sociale di tipo particolare, di borghese, si sono autotrasformati in uomini esistenti da sempre, e i uomini universali sono loro, sono stati i borghesi, non sono stati gli operai. Certo che è chiaro che anche la cultura operaia di opposizione, anche il movimento operaio, ha per forza di cose, era inevitabile, ha, come dire, preso in prestito, pensando di utilizzarle per rivoltarle contro di loro, a uno scopo nobile, certo, nessuno dice di no. Però in qualche maniera è gran parte del lavoro interno al movimento operaio nell'Ottocento e nel Novecento è stato questo, è stato il tentativo di estirpare, di togliere, di diciamo, liberare il movimento operaio da questa distanza culturale alla cultura borghese. Quando, non è una cosa che io glorifico, ma quando il movimento operaio si spaccò poco prima e durante la prima guerra mondiale sul tema della guerra, cioè se i singoli partiti socialisti dovevano partecipare alla guerra, alla prima guerra imperialistica, oppure dovevano, si spaccò e ci fu quella spaccatura che poi durò per tutto il Novecento, quella tra diciamo, la componente democratica e la componente comunista. Nella componente comunista c'erano gran parte dei difetti che abbiamo visto poi che hanno dato luogo a ciò a cui hanno dato luogo, la colpa del carattere oppressivo dell'esperienza della Russia insomma sovietica non è colpa solo di Stalin, non è stata colpa soltanto di Stalin. Io sono nato e cresciuto da giovane, nell'ultima parte della mia giovinezza con una tradizione di pensiero che salvava il leninismo e condannava il comunismo. Finita questa esperienza mi sono ricreduto e da molti anni sostengo che il difetto stava in manico, stava nella base, certamente Stalin era uno particolarmente stronzo, molto più diciamo, autoritario, molto più oppressivo di Lenin, ma anche Lenin e lo stesso Trotsky, che pure fu poi l'oppositore fortunato e perdente per un breve periodo di Stalin dentro all'Unione Sovietica, anche nel pensiero di Lenin e di Trotsky c'erano i germi di quella che si sarebbe sviluppata con lo stalinismo. Quindi è sbagliato dire che lo stalinismo fu soltanto e totalmente un tradimento della prima fase del socialismo. Fu certamente un peggioramento e una esasperazione di tratti autoritari che c'erano fin dall'inizio della tradizione e della componente leninista. Detto questo, però, bisogna dire che perlomeno la tradizione comunista fu quella che all'interno del movimento operaio del Novecento cercò più di ogni altra di svincolare le basi culturali del movimento operaio da una subitanza alla cultura borghese. Io dico senza riuscirci perché anche la componente comunista, senza accorgersene, era un pezzo di quella tradizione. Per la componente democratica è chiaro, è un rilievo, insomma, che sono stati dei leccatori, dei sappiamo, per loro è normale. Ma gli stessi comunisti, che hanno preteso invece sempre di essere, tranne alcune, ci sono solo piccole correnti, piccolissime correnti nella storia del movimento operaio del Novecento. Alcune, forse Rosa Luxemburg si può salvare, alcune componenti olandesi o inglesi, di teorizzatori integrali del consigliarismo, cioè dei consigli operai senza alcuna sovrastruttura, forse sono quelli che hanno saputo combattere meglio, perché con questa idea di un partito che doveva diciamo, guidare la lotta, e di una fase di transizione di uno Stato cosiddetto socialista che doveva, diciamo, traghettare lo Stato post-rivoluzionario verso il comunismo, cioè verso la società senza classi. In questa impostazione c'era una sudditanza al gradualismo, alla, e in fondo alla, come dire, eternità e onnipotenza delle forme politiche tradizionali. Si è visto poi dove sono state traghettate, dove si sono autotraghettate la Russia e la Cina, non parliamo più ancora. La Russia e la Cina sono le due grandi esperienze in cui ha vinto una rivoluzione comunista e una rivoluzione socialista. La Russia, dopo 60-70 anni di bluff, di continuo bluff, è implosa su se stessa come un castello di carte, come un castello di carte. Sono stati per 70 anni, sono stati l'incubo, la Russia era l'incubo dei governi americani, dei governi degli Stati Uniti. Io avevo 13 anni nel 57 quando i russi per primi lanciarono lo sputo. L'Occidente è rimasto in coma. Ma poi qua, prima loro, era impossibile. Una paura della Madonna, si sono presi su una frutta terribile. E allora subito, cioè, c'era quella, era Unione Sovietica, la Russia al centro e quella ventina di piccole repubbliche intorno, sembrava una roba del dominio. La caduta del muro di Berlino, cioè la crisi ovviamente di una delle anomalie storiche più e anche delle cose più scandalose, cioè il paese che ha perso, vabbè, che ha perso la guerra, certo, responsabile della cosa, la Germania, per fare tutte le parlette, le attività, eccetera, diviso in due, spaccato in due per 40 anni, una parte all'ovest e una parte all'est. Ma voi insomma sapete come è crollato il muro, cioè, non c'è stata nessuna guerra, nessuna invasione, non c'è neanche nessuna pressione economica, niente. A un certo punto la gente dell'est dopo 40 anni erano stufi, solamente stufi, quelli di Berlino Est erano stufi, no? Eppure Berlino Est tra est e ovest più o meno giravano, però certo c'era il muro, c'era sto simbolo, c'era sta roba che tagliava in due questa, diciamo, città, questa cosa. E quindi niente, la gente ha cominciato, diciamo metaforicamente, a dare spallate con le loro spalle, di esseri umani. Non c'è stata nessuna, la pressione psicologica e l'organizzazione della Germania Est, che sta venendo pure adesso, ma si come io sapeva anche da prima, insomma, era uno degli stati che aveva l'organizzazione spionistica più capillare del mondo. Tutti lavoravano nella Stasi, tutti, per i servizi segreti. Aveva milioni e milioni di collaboratori, di persone normali, che facevano rapporti tutte le settimane alla Stasi, di mio vicino Radio Costolino, la mia cugina ascolta Radio Londra, l'altra volta Helmut Ferbrand ha parlato male di Onek, cioè tutto che si è riuscito fuori adesso, però robe enormi, cioè una ipertrofia del sistema spionistico con un cazzo. Il grande fratello, il libro di Orwell, dice, ah, un regime così non cadrà mai più perché è radicato, perché tutto, dall'oggi al domani non sapevano cosa fare. Arrivavano gli ordini, dice no, allora per due o tre giorni hanno detto che c'erano questi che volevano andare a, perché c'era il muro in mezzo, poi dalla parte dell'est era un pezzo di terra di nessuno, con i viventi, le famiglie che la rinunciavano, sparavano su scene famose, al cinema ambientate con questo muro, il primo film era La spia per la stretta, quindi c'era una scena di muro, fatto un muro. Sparate, no? Sparate, beh, nessuno ha obbedito a quello, nessuno ha obbedito a nessun popolo, nessun soldato della grande lettera deve nel barato della confusione più incredibile. Io sono arrivato a Berlino nel 10 giorni di dicembre dell'89, perché voglio vedere com'era, insomma, quindi ho visto gli ultimi giorni ancora c'era il muro, però c'erano già le persone che stavano già picconando, quindi c'è avuto un bel po', insomma, diverse settimane per buttarlo giù tutto, perché, ma è stato buttato giù realmente, materialmente, dalle persone che dall'est e dall'ovest picconavano, infatti ogni modo lo sapete, è pieno di insomma, souvenir di tutti falsi, come comunque della Croce di Cristo, insomma, il pezzo della Croce di Cristo, che cambia tanto, insomma, pagando veramente 7, 8, 10, 20, 200, con tutti i casi che sono in giro, ma comunque sia la cosa importante è che ci sono qua. Quindi, la Russia è stata traghettata da 70 anni di socialismo, è stata traghettata, c'è molto poco, sono passati 5-6 anni, ad un sistema di tipo capitalistico mafioso. Un tipo di capitalismo particolare che è lo stesso poi più o meno se la Lega riesce a fare la secessione qua in Italia è quello che sarà in Italia. Beh, al nord ci sarà un sistema più o meno sovietico, se la Lega ha una idea in modo di fare assolutamente questo, quindi pseudo. Mentre da Firenze in giù o da Roma in giù ci sarà uno Stato finalmente direttamente capitalista mafioso, cioè la 'Ndrangheta, la Camorra e la mafia potranno avere finalmente il riconoscimento anche ufficiale e legale del peso economico che loro possiedono in questo paese, che c'è un loro viene creato da queste organizzazione, mica roba da buttare via, cazzo. Quindi tanto vale, come ha fatto Putin in Russia, in qualche maniera integrarli dentro lo Stato e addirittura eleggere, ovviamente prima no, perché diciamo le cazzo, ma quando è il posto, perché non va neanche, cominciamo con dare qualche corso di possibilità, che d'altra parte sapete bene che Berlusconi la Corte d'Italia è stato il signore dell'ultimo, no? Berlusconi per il quale adesso ha l'università di affari. Il ministero ha chiesto 11 anni di reclusione perché è una vittima malata che era ma non so, quindi il primo caso è già condannato, vediamo se condannano anche. Comunque, il signor Berlusconi non ha mai spiegato l'origine del partito con cui ha costruito Milano 2. Se lui si prende la parte, no, io c'era mio cugino in campagna, mi ha destato. Siccome lui stranamente è così reticente, noi siamo autorizzati a pensare che abbia fatto prima la nascondere. Che quindi potrebbe anche essere che questi soldi li ha avuti, siccome casualmente in quel periodo lì, cioè qualche anno dopo gli hanno mandato come stalliere, come responsabile delle stalle di Arcore, un importante capo mafia da giù, che si chiamava Manga, è morto, uno potrebbe anche fare due, diciamo, forse, avevi dei rapporti economici con questa gente, a fin di bene, perché poi l'ha fatto più di bene, ha fatto un gran due, ha fatto una cosa bella, no? Importante, quindi si sono andati così. Allora, la Russia si è traghettata a un sistema di elettorato. La Cina, che fine sta tracendo la Cina? La Cina ancora più terribile da un certo così, perché la Cina da un paese a, diciamo, economia, chiamiamola collettivista o pubblica come era quella sovietica, nel giro rapidissimo di 15 anni è invece passata ad un sistema capitalistico apertamente anzi spudoratamente quasi direi capitalistico, ma ahimè senza, come dire, avendo questa storia tutta sua particolare, perlomeno la Russia ha adottato formalmente il sistema democratico, poi sappiamo che la democrazia formale in quanto tale parlamentare conta poco, se tu hai un bel sistema, un po' di voto di scambio, una bella cosa, una legge elettorale per cui non puoi manco scegliere in quale candidato la tua preferenza, è facile fare uno stato autoritario anche su base parlamentare, no? Anche tra le votare in interessante, ma in Cina manco quello, cioè in Cina partito unico, la Cina continua a diciamo la mentre la ricetta, diciamo, russa è stata qui parlamento occidentale, capitali internazionali, mafia autonoma ma forte, la Cina invece adotta il modello capitalismo, quindi sviluppo rapidissimo del settore privato e mantenimento del sistema autoritario precedente. Partito unico, elezioni sì, ma senza competizione tra partiti diversi. La Cina è un esempio interessante, perché ovviamente non ne frega niente a, diciamo, nessuno in Occidente di quale sia il sistema politico cinese, perché devo fare gli affari con, diciamo, la Cina, quello che è importante è che Obama è che la Cina non si vede un modo tutti i bond americani che stanno in cosa, perché sono proprietari di quasi un terzo del debito pubblico americano, se non si chiama gli altri o altri chiama il nome del il primo ministro i presidenti, quello lì che sì, lui in caso è sì. Allora, basterebbe che i cinesi chiedessero, dicevano, tu papà, ma dice, qua ci sono i bond, ci dai i soldi, perché abbiamo visto, abbiamo un po' di premio di vita, poi sapete che gli Stati Uniti vanno. Ma da un punto di vista politico e storico, la Cina è interessante perché dimostra concretamente che non è vera l'equazione che è stata fatta sempre finora, la democrazia e il capitalismo, no? Il capitalismo però è un sistema democratico, ci sono tante critiche da fare, ma perlomeno è un sistema democratico. Il capitalismo è nato in Europa insieme, in concomitanza, seguendo, no? la stessa strada della democrazia, è nata la democrazia insieme. Attraverso una strada un po' particolare, un po' tutta sua, la Cina dimostra invece che è possibile un sistema capitalistico anche senza la democrazia. Naturalmente noi che siamo malfidenti, dico io, non dico loro, io e quelli come me che siamo malfidenti, noi questa cosa la speravamo già, perché non abbiamo mai creduto alla favoletta che ci hanno insegnato, che hanno raccontato quando eravamo piccoli, che il fascismo e il nazismo fossero delle aberrazioni del sistema occidentale, che il sistema occidentale essenzialmente fosse democratico. Guarda bene, intanto qualcuno in Italia negli anni 20 si fu questa stessa casa di Mussolini, che si inventò questo sistema, poi ebbe un ammiratore e un imitatore in Germania che fece dopo di lui, ma un po' tardi di lui, che si chiamava Hitler, ma le forze sane dell'Occidente a un certo punto, Inghilterra, Francia e Stati Uniti, sono temporaneamente alleate con uno un po' cattivo che era Stalin in Russia, per fare fuori questi qua che sono, come dire, che rappresentavano delle persone impresentabili nei salotti buoni, un po' come Bossi, che non si può portare troppo in giro perché fa fare delle figuracce. Le cose non sono andate proprio così, grazie. Il fascismo e il nazismo non sono stati degli incidenti di percorso. Il nazismo e il fascismo sono stati la dimostrazione del fatto che il capitalismo è relativamente indifferente alle forme politiche. Utilizza la democrazia quando gli fa comodo, quando gli va bene, e generalmente possiamo dire che in genere, fatti i conti della storia, è quella che gli è servita di più, la democrazia, perché amplia la base del consenso, rende le cose più semplici, insomma è come la vasellina, la democrazia, per fare una cosa particolare che diciamo, se no, è meglio evitare certi argomenti. Ma non è obbligatorio per il capitalista essere democratico, neanche nel modo tutto sommato superficiale e riduttivo con cui si può identificare la come dire, democrazia con un sistema parlamentare di tipo elettorale, una democrazia rappresentativa. L'Italia forse no, l'Italia era un paese che nel 1921 era ancora essenzialmente un paese agricolo e stava diventando particolarmente un paese industriale, c'era solo la Fiat, c'era già la Fiat e poche altre industrie, insomma, ma la Germania, ragazzi, la Germania era un paese industriale da quasi 60 anni, era come è adesso la potenza economica, una delle potenze economiche più forti, più grosse dell'Europa. Aveva avuto il Kaiser, certo, la si era trasformata quando i prussiani hanno, nel 1860, hanno unificato la Germania, si sono preoccupati di costruire una monarchia democratica, una monarchia democratica, rappresentativa, tra parlamentare con il Parlamento. Poi c'è stata la seconda guerra mondiale, c'è stata la della sua dinastia, non ricordo più come chiamare il Kaiser, Federico Guglielmo II. E qui si è formata la Repubblica, e quando Hitler prese il potere nel 1933 lo vede in una Germania repubblicana. Ma Hitler è stato un incidente di percorso? Secondo voi Hitler sarebbe dovuto andare a potere con tutta la classe politica ed economica tedesca, non avesse appoggiato? Se Krupp non fosse la storia, se la AG Chemica non fosse la storia, se le grandi industrie tedesche non fossero la storia, erano contentissime, come fu contenta la Fiat del fascismo in Italia? Perché i fascisti permettevano di risolvere quel problemino, quella scocciatura che erano gli operai rivoluzionari, quelli che occupavano le fabbriche, quelli che davano fastidio, gli anarchici che giravano per le piazze, insomma i fascinolosi, quelli che erano fascinolosi, che erano le fabbriche dell'uomo in testa, ma un po' più di persone. I fascisti sono ottimi per liberarsi dei poi tanto di controllare. questo è quello che fa Giolitti in Italia. Giolitti fece il furbo, non mise fuori legge, il re fece il furbo nel 21, avrebbe dovuto firmare il 4 assedio quando questi quattro sciamanati di camicia nera fecero questa ferma di Roma. Fatale, rimase lo Mussolini viaggiò in treno, quindi era rimasto qualche turno con Bossi, che era in treno, pur lui, non è che marcerebbe con il corpo di quel gruppo. Bastava che dicesse ai carabinieri che fermavano, che era stato volontario di dire, certo c'era consenso, certo, ma nel 21 i fascisti erano ancora una minoranza rumorosa, una minoranza. La borghesia e il centro politico italiano pensarono di essere più furbi loro, pensarono di aiutare i fascisti per liberarsi di questi comunisti e di questi operai che erano un po' troppo agitati, si erano permessi nel 18-19, nel 19-20, di occupare la città. Che forse più bene non si occupano, quando fanno sono tutti dei proprietari. E lo stesso fece la borghesia tedesca, la grande borghesia tedesca, la grande giunta tedesca. Il fascismo è sempre stato una delle opzioni politiche possibili in un sistema capitalista. Non è stato tutto meno che una aberrazione. Così come lo schiavismo non era una aberrazione, non fu una aberrazione per i tre. E quando Abraham Lincoln, espressione del blocco degli Stati del Nord, degli Stati Uniti del Nord, che avevano economicamente deciso che la schiavitù non era per loro più conveniente, e economicamente, e che anzi era l'ostacolo più grosso, la schiavitù nera negli USA era l'ostacolo più grosso alla trasformazione degli USA in un vero paese industriale, con un esercito adeguato di forza lavoro, di operai. Se c'erano troppi schiavi neri non si poteva formare la classe operaia che serviva per l'espansione delle industrie del nord. Quella fu la ragione per cui si fece la guerra al piano civile, forse vuol dire che gli Stati Uniti hanno abolito la schiavitù perché sono stati fulminati sulla via, esatto. No, che brutto, abbiamo tenuto schiavi la miseria, non lo sapete. No ragazzi, dobbiamo fare che non si fa questa cosa, ne schiava la gente, ma no, per questo va detto che Lincoln era l'espressione del capitalismo nascente statunitense, americano, che aveva bisogno, ma c'era un ostacolo perché si sviluppasse un bel capitalismo, come poi si è dopo sviluppato, e avete visto che ci hanno fatto marameo a tutti perché hanno sviluppato l'Europa in poco tempo dopo. Già negli anni 20 erano. Però c'è voluta la guerra civile, c'è voluta l'abolizione della schiavitù. Quindi basta con queste favole, basta con il raccontarci queste palle, che l'Occidente è buono, che l'Occidente è illuminato, che l'Occidente è democratico. L'Occidente è una bella merda. L'Occidente ha lenzuola sporche e scheletri in un armadio che non parliamo bene. Non possiamo dare lezioni a nessuno nel mondo, noi, a nessuno, neanche ai cinesi, che semmai ne avrò da dare a noi sul fatto di altre cose. Allora, la cultura più stabile del mondo ce l'hanno loro, non che sia per me così desiderabile, è una cultura tanto stabile, però ce l'hanno. E quindi come il capitalismo era ed è stato per una fase, per un periodo, compatibile con lo schiavismo. E volendo, ragazzi, potremmo anche dire che se andassimo a scavare dietro il significato delle parole, certo che nel regime capitalistico tutti i cittadini sono formalmente uguali, formalmente liberi, vero? E possono e hanno il diritto di fare i contratti. Sono caro mia, nulla tenente, lei è un agnelli, crudamente. Sono Elkan, sono. No, non quello. Claro, quello presentato. Sono Marchionne, se possiamo fare un contratto? Dica, come fai facile? Piacerebbe occuparmi, io cosa so fare? Ma so scrivere, va bene. Dice, faccia, mi si occupi della comunicazione per noi. Ah, va bene, dico, volentieri faccio io. Quanto vuole essere pagato? Dice, ma via qui 100.000 euro l'anno, faccio io. Dice, ah no, dice, mi dispiace, 100.000 euro l'anno, mi dà, ma c'è la rete di là. A questo punto, che cosa dico? Se non accetto? Se c'è uno che ha la possibilità di dare, mi dite voi dove cazzo sta questo contratto? No, adesso sto cazzo di governo ci abbiamo messo, non è che sia una gran cosa che io dico che quello che sia, poi oggi per la gran parte dei lavoratori non vale. Ma per cui poveri cristi per cui vale, cos'era? Che cosa era l'articolo 18? Era che cosa fu lo statuto dei lavoratori? Promulgato nel 1972 o 73, il riconoscimento che sotto la forma apparentemente di uguaglianza giuridica tra un datore di lavoro e un lavoratore ci sta una disparità di mezzi, di possibilità. C'è uno che se non lavora non mangia, c'ha una corda al collo, cazzo, e deve firmare quel scontato lì. L'altro, se non firma lui, se non ci dà canonia a fargli i testi per la Fiat, ne trova altri 10.000 della fila dietro di me. Vabbè, io poi sono due, sto prendendo perché mia, lei va in pensione, non ci sentiamo in pensione. E quindi allora lei paga. Pensate, un canonia giovane, per cosa di conto. Io nel 72 stavo a Torino nel 72, l'anno in cui venne. Sono andato alla Fiat dello Stato italiano a chiedere di essere assunto. Quindi dietro la facciata di apparente uguaglianza ci sta una ovvia disparità, disuguaglianza sociale fortissima. E questa disuguaglianza sociale costringe una serie di persone, costringe la maggioranza della popolazione ad accettare i lavori e le condizioni che l'altra parte contraente vuole e può imporre. Se voi pensate alla condizione di un operaio tradizionale che si faceva le sue 8 ore minimo, poi con gli straordinari di più, anche 10 ore in fabbrica, inserito in un'organizzazione capitalistica che determinava secondo per secondo che movimenti doveva fare alla catena di montaggio o alla macchina. Se pensate alla sua vita quando tornava a casa nei quartieri operai, a quello che poteva permettersi con il suo reddito. Se pensate oggi a uno qualunque di voi, gente della vostra età o poco più, costretti perché non c'è altro, perché il mercato, questa meravigliosa questa mano invisibile che Adam Smith diceva lasciatelo fare il mercato, che mette tutto la mano invisibile, metterà a posto tutto, sorprendo, metterà a posto tutto, metterà l'ombrello di Altan in quel corpo, capito? Questa è la mano, questa è la mano invisibile del mercato di Adam Smith. È una mano chiusa a pugno con un dito medio che esce fuori. Bene, secondo voi, certo, formalmente siamo tutti liberi, certo, non abbiamo la catena al collo, né la catena che ci tiene legati a lui, non siamo proprietà di nessuno, siamo esseri liberi, siamo esseri umani liberi, ma siamo veramente liberi, c'è veramente la libertà, sarebbe così strano descrivere la condizione della maggioranza dei lavoratori nei paesi socialisti due secoli fa come oggi, come una forma di schiavitù. Non è una forma di schiavitù nello stesso modo. Quindi hanno fatto bene, certamente, gli industriali del nord, diciamo degli USA, a liberarsi perché l'opinione pubblica e l'hanno abolita tutti, abolitela pure voi, eccetera. Ma voi sapete che quali sono state le conseguenze sui neri americani della guerra civile? Sapete perché Chicago è una delle... non c'erano neri, c'erano pochissimi neri a Chicago. Chicago, perché è dove sta? Il nord degli USA, nord. Non la Georgia, la Carolina, il cotone, il blues, la Louisiana, il laggiù, no, postacci di merda freddissimi. Cosa? Blues elettronico di Chicago. Ma perché nasce il blues a Chicago? Perché vanno i neri che erano stati dopo la fine della guerra civile, dall'oggi al domani, finita la schiavitù, la maggioranza dei neri americani moriva di fame. Perché questi hanno fatto la guerra, dice bene, la schiavitù è abolita, e uno che ha fatto la schiavitù tutta la vita, cazzo, e cioè, dice va bene, allora poi figurati se i grandi proprietari italiani hanno venduto tutto, cioè, e cominciavano già a cambiare le cose. Insomma, morale, i neri morivano di fame perché non erano più loro, non erano più schiavi, quindi i loro non avevano più padroni, dovevano contrattare come degli operai, come diceva bene, adesso faccio il braccianti, gli dai lo stesso salario di prima, o quello che ti dà, non si poteva perché era già stato un casino, e quindi il risultato è stato un esodo umane, milioni di persone dal sud degli USA verso il nord, che hanno attraversato un esodo biblico, e lì, certo, per questo quello che è Chicago il blues nasce nelle aree rurali, eccetera, eccetera, ma poi quando arriva, già negli anni 20, già negli anni 10 prima, la contaminazione tra le musiche etniche, diciamo, tradizionali, degli irlandesi, dei polacchi, degli altri paesi europei, dei francesi, eccetera, eccetera, e questa forma, che era una forma tipicamente nera, che era prima gospel, e più in generale era. Quindi questo per dire che anche da un punto di vista sostanziale, dire che la schiavitù è stata, certo, la schiavitù è stata formalmente abolita, ma dal punto di vista sostanziale si potrebbe dire, è una cosa opinabile, ma nessuno può accusarci di potacciarci di preconcetta possibilità verso il capitalismo, se noi diciamo che perlomeno possiamo avanzare l'ipotesi che anche il lavoro salariato nel capitalismo sia una moderna forma di schiavitù, moderna, un po' più pulita, meno intollerabile, meno bastardamente fascista di quella. E quindi per tornare a noi, non è vero che fascismo e nazismo sono stati due malaugurati incidenti di percorso sulla strada di un capitalismo che di per sé sarebbe invece pienamente dedicato alla dea democrazia. Non è così. il capitalismo sta, e ripeto, l'esempio della Cina oggi rafforza questa cosa, perché ci dimostra che è possibile un capitalismo senza democrazia, neanche anche senza addirittura la democrazia, diciamo, formale. E allora, per chiudere, perché oggi sono vado veramente bene, diciamo, insomma, quindi l'idea di Ingrao, di Barcellona, di Trotti, che la politica tradizionale, la loro idea che qualche cosa chiamato movimento operaio debba riconquistare qualche cosa chiamata politica, nelle forme in cui questi signori l'hanno conosciuta quando erano giovani, ed è più o meno la stessa forma in cui l'ho conosciuta io quando ero giovane, io sono un po' più giovane di loro, ma non tanto da non averla conosciuta anch'io in quella forma. Questa idea quindi è una idea che, devo dirlo, lo dico senza acrimonia, mi piace, ma non fa onore a delle persone che si richiamano a Marx, perché a me pare un modo di pensare che tradisce il metodo più profondo, l'ispirazione metodologica più profonda di Marx, che, come vi ho detto, non è mai stata quella di dire non va bene così, torniamo a come era prima. Il metodo di Marx è stato quello dei versi di Hölderlin: là dove cresce il pericolo, là cresce anche la salvezza. Buttarsi nelle fauci del lupo, non fuggire dal lupo, affrontare il capitalismo all'interno dei meccanismi capitalisti, valorizzare la contraddizione tra socialità, socializzazione, cooperazione della produzione e privatizzazione della appropriazione, che è la contraddizione bruciante del capitalismo. Il sistema più socializzante e più cooperativo di produzione che il mondo abbia mai conosciuto è lo stesso sistema nel quale vivono gli stessi meccanismi di appropriazione delle società precedenti, in cui una minoranza di capitalisti industriali o post-industriali si appropria del suo valore, esattamente come i proprietari terrieri e i latifondisti nelle società precedenti. Ma Marx non ha mai detto aboliamo il capitalismo per abolire il capitalismo, ha detto aboliamo questa contraddizione del capitalismo, facciamo sì che anche la distribuzione della ricchezza corrisponda in modo più preciso all'allargamento della base produttiva e al carattere cooperativo e progressivo e migliorato, e che migliora di giorno in giorno, della produzione. Non ha mai detto torniamo indietro. E allora, per me, dire cyborg e dire postumano significa solo questo. Significa prendere atto che siamo in una fase nuova del capitalismo, che non c'è più né la classe operaia tradizionale come soggetto politico, né la classe imprenditoriale, né la classe capitalistica, diciamo, tradizionale, che stanno venendo fuori nuove classi, che la nuova classe su cui dobbiamo, che è quella di cui fate parte voi, di cui fate parte anch'io, ma per vie, diciamo, traverse, strane, eccetera, di voi non fate neanche parte totalmente. Ma non è quello, non è quello importante. Voi sicuramente fate parte di questa nuova classe, che è la classe dei lavoratori precari, la classe della nuova forza lavoro. Non siete più, non potete concepirvi come classe operaia, perché non vi mandano, perché non vi mettono nelle condizioni in cui misero gli operai classici. Non state in uno stesso posto, in uno stesso spazio fisico, sotto uno stesso capannone per 12, 10, 8 ore al giorno a fare un, diciamo, lavoro in cui vedete con i vostri occhi la cooperazione e vedete con i vostri occhi i, come dire, macchinari che unificano la vostra condizione con quella dei vostri compagni. Questi erano gli operai. Era gente che si vedeva tutti i giorni, che si conosceva e che vedeva, che aveva l'evidenza visiva, fisica, della, diciamo, unicità, della omogeneità della condizione lavorativa. Questa classe ci mise decenni per formarsi come classe, decenni, più che decenni, quasi un secolo, per formarsi come classe, per darsi una coscienza e quindi per dotarsi degli strumenti organizzativi, sindacali, politici, editoriali, comunicativi che gli servivano per fare la lotta politica. Ma caro Pietro Barcellona, caro Pietro Ingrao, caro Mario Tronti, questa classe non c'è più. È inutile che voi inseguiate la nostalgia di forme politiche che erano collegate con una situazione che non c'è. Ripeto, il fatto che la società più non vuol dire che sono scomparse le classi. Ogni società sviluppata è, e io penso sarà sempre, una società di classi. Soltanto che le classi, la classe, le classi, i gruppi, diciamo, sociali che nascono da questa fermentazione che sta durando, che sta venendo fuori negli ultimi 30 anni, sono classi diverse. E quindi vi ripeto, oggi il comunicatore è, per una serie di motivi storici, la classe, il raggruppamento sociale, la condizione sociale a cui voi fate riferimento, quella dei lavoratori precari, non è tale, non sta ancora esprimendo in maniera generalizzata un percorso di autocoscienza sufficientemente largo, sufficientemente ampio, da potergli permettere a questo argomento di costituirsi come classe. Perché vi ho detto che la classe non è un concetto puramente sociologico, è un concetto di insieme sociale e politico, è un percorso attraverso il quale si forma. La classe si forma quando si forma come classe, è già potenzialmente un soggetto politico. Il precariato di oggi non sta ancora in queste condizioni. Ci sono delle importantissime piccole minoranze ancora di esponenti di questi strati sociali che stanno tentando di costruire in primo luogo le condizioni per estendere a un numero sempre più vasto di queste persone che, ripeto, non hanno il luogo tradizionale in cui si vedevano gli operai, la parte. Fu relativamente semplice per la cosa operaia. Sembra che le cose si ripetono, io parlo da precario. Cioè, alla fine cambi tanti lavori, ma la situazione è sempre la stessa, vedi sempre le stesse persone che girano i lavori e non è la stessa foto. D'accordo con te, però il fatto di non avere una, come dire, una condizione materiale uguale. Palmare, cioè, uguale. Una volta c'erano poche condizioni materiali, quelle che si riconosce. Certo. Oggi le condizioni materiali sono state più o meno perse, certo. E anzi sono quindi. E c'è una varietà, c'è una varietà di reali. È vero che dal tuo punto di vista, però questo lo dici tu e lo pensi tu, che probabilmente già hai una. Ma la gran parte di questa gente, cioè la gran parte dei lavoratori precari oggi, no? Io non dico che non sarà mai possibile questa cosa, dico però, primo, che non può avvenire ripercorrendo la strada del movimento operaio nazionale, perché mancano le condizioni, è vero come dici tu, che poi, però no, c'è poco da fare, non vedi le stesse persone per sette giorni su sette, o cinque su sette, tutte le settimane per un mese, non le vedi, cambiano, cioè, magari poi li trovi da un'altra parte. Capita che ogni colloquio però sono i colloqui, ci stai un'ora, due ore a quel colloquio, poi dopo te ne vai, non è il posto in cui vivi e trascorri la tua vita. Quindi le strade, le vie che vennero seguite per formare un operaio sono impercorribili oggi. Oggi ci sono alcune importantissime, ripeto, e mai abbastanza benedette, esperienze di auto-organizzazione che sono di piccole minoranze, certo, che però stanno, perché è già da parecchi anni, da almeno da, diciamo, 10 anni in maniera visibile, che in Italia e in Europa si cerca di organizzare e di perlomeno di capire le condizioni a partire dalle quali sia possibile innescare un percorso che porti verso una autocoscienza di classe anche questi nuovi, diciamo, strati. Ve lo dico oggi perché voi sapete bene che sabato è una giornata importante che fu una conquista storica del movimento dei lavoratori tradizionali, ma questi nuovi movimenti si sono impadroniti, hanno deciso 10 anni fa di occupare anche il Trotti e di costruire un primo maggio diverso. Da 10 anni, Milano è la capitale di questo movimento in Italia, si svolge un primo maggio, non si può più dire che sia un primo maggio alternativo, cioè che i primi anni in cui si fece diventò rapidamente il primo maggio più importante, cioè di mattina i sindacati tradizionali sono 4 gatti e il pomeriggio, ore 15, porta al Canto Ticinese, da 10 anni partono i carri, parte un serpente, parte una delle maggiori più belle che io abbia visto nella mia vita, e tutti gli anni diversa, tutti gli anni nuova, tutti gli anni, e che esprime esattamente quell'intreccio tra novità dei contenuti e novità delle forme comunicative e novità degli strumenti di processi comunicativi, questo intreccio che, ripeto, è non una garanzia, non è una condizione sufficiente, ma una condizione necessaria per riconoscere i movimenti diciamo interessanti, quelli che contano, quelli che servono a qualche cosa. La media italiana che si svolge, questo è l'11° anno, May Day Parade, May Day, sapete che questi giocano anche sulla ambiguità, perché May Day in inglese vuol dire solo più omaggio, ma è anche l'SOS, il Titanic prima di affondare, insomma, May Day, quindi è una invocazione, è una auto-invocazione. Se avete visto, andatevi a aspettare di più, ho visto il filmato di San Precario, che è il tema di questo momento, ed è un, insomma, filmino in cui appunto San Precario spiega, che è il simbolo del momento, spiega al povero precario, che ha un viso simile al tuo, ma simile moltissimo a te. Vi racconto le storie. A un certo punto San Precario gli dice: guarda che tu hai battuto, non sei me che devi pregare, devi fare conto su te stesso, devi organizzarti tu insieme con tutti questi che vedi che stanno fuori, eccetera. Quindi va a dire, per dirmi che andate completamente in cui credo che quest'anno l'interprocontato, non è quello di parte, con l'interprocontato viene volontario, Fabio sta preparando e noi ci vedremo nel prossimo. Puoi chiudere, ragazzi. Allora, mi mandi tu? Speriamo che siamo.